ogni persona e non solamente ai bambini, come siete portati a pensare, accade di sentirsi dire devi far questo. Io ci ho composto su una canzone. Ve la canto. E allora, attenzione! Il 31esimo articolo per il 2004. Volevamo ringraziare te italiano che stai ascoltando questa traccia. Grazie, grazie. Anche se legalmente siamo tenuti ad avvertirti che se hai comprato questo disco vuol dire che hai problemi, e se lo tieni vuol dire che bevi, rubi e bestemmi. Visto che il cantante non raccoglie premi, hai reni pieni di veleni come di bassi Miami. Guarda che qui sali su treni sprovvisti di freni, e rischi che sti dischi ti portino fischi da amici e colleghi. Qui zero Sant'Antonio soluzioni, c'è poca cultura e l'istinto separa cattivi dai buoni, i rumori dai suoni, le eccezioni dalla soma, dalle definizioni fuori la divisa non mi dona, nel senso del pudore, dello stato, del comune, neanche il nome che ci danno sulla rubrica di costume. Vesti e mutanti siamo noi, oi, oi, oi, oi. E non ci ammazzerete mai, oi, oi, oi, oi. Sabotaggi negli ingranaggi, scarafaggi con tatuaggi, noi. Mutanti, noi. Mutanti, noi. Mutanti, oi, oi, oi, oi. Is that a problem that I can't fix? 'Cause I can do it. In the mix di roba mista, all'alternativissima rivista resta qualunquista. È che se ne infischia di destra e sinistra e mischia modi minestra una miscela mai vista. Al giornalista che intervista rispondo alle domande, tanto questa musica leggera è pesante come un elefante. Non ha mezza misura, stai vicino, stai distante. Se la fischi scende dal palco ti spezza le gambe. Lasciatemi cantare, sono italiano sul terreno, tra il Mediterraneo e il Tirreno, con il suono alieno che fa a cazzotti con l'orchestra di demo. Non va da Pavarotti nemmeno a Sanremo, sotto influenza negative di cannabis attive. Ehi mamma, qui ci sono canzoni nocive, generazioni recidive, legislazioni proibitive, mentre l'alcol e la sigaretta legalmente uccide. Veleno quotidiano, ma facciamo finta che non fosse, e ci chiediamo perché se accendiamo una gioia e fumiamo un ministro alla tosse. Pesti e mutanti siamo noi, oi, oi, oi, oi. E non ci ammazzerete mai, oi, oi, oi, oi. Sabotaggi negli ingranaggi, scarafaggi con tatuaggi, noi. Mutanti, noi. Mutanti, noi. Mutanti, oi, oi, oi, oi. Non te lo potevi aspettare, potesse tornare quella canzone popolare, stava per affogare e invece torna tipo zombie, costruisce ponti. Se ti interessa definirla meglio che ascolti, qui non ci sono festi, solo brutti cefi, tutti messi a fare cassa pezzi come le tasse, prezzi e musica dalla metodica caotica, qui non si merita. Io c'ho la palla fuori come Edica, mutazione genetica della tradizione melodica, non è colonica né americofobica, chiamala comica ironica, ma se suona cronica nella scatola cranica è una tonnella manica e carica la forza nelle braccia. Se quest'Italia vale una medaglia siamo l'altra faccia, fegato, stomaco, cuore, istinto, gomito, gomito col rumore che vomito, ora dimmi chi ha vinto.